Io e Matteo di Ernesto Granese. Episodio numero 58. L'arresto di Matteo. Letto da Marco Torricelli. La mattina del 22 luglio 1983 mi alzai di buon umore. Era una giornata tipicamente estiva, come tante da noi al sud. Aria fresca, cielo terso e quel sole già pronto ad avvolgere di luce i tetti delle case, la pianura e le colline intorno. Quel giorno avrei rivisto Rosalba per definire gli ultimi dettagli della nostra partenza. Ci eravamo dati appuntamento a casa sua per le 10. Per l'occasione presi in prestito l'auto di mio padre, una Fiat 128 dannata, o dannata, a seconda dei momenti, perché non ne voleva sapere di farmi ingranare la quinta. Mio padre la custodiva come fosse un cimelio di famiglia. Decisi di portare Rosalba a fare un giro nei pressi dei magnifici templi di Paestum, che mi affascinavano fin da ragazzo. Prima però avrei fatto un giro con lei per i negozi, poi pranzo al ristorante pizzeria La Perla di Capaccio. Era una delle poche occasioni per conoscere Rosalba davvero, capire se valesse la pena fare insieme quel lungo viaggio. In fondo sapevo poco di lei, il suo mondo, i suoi interessi, le sue aspirazioni, il suo carattere. Ma quel giorno Rosalba appariva diversa, nervosa, irrequieta, quasi assente. Mi chiedevo cosa potesse esserle successo. Nel giardino sul retro del ristorante, con una splendida vista sui templi, ci portarono pesce fresco, fritto misto e un buon vino bianco. Tutto sembrava procedere secondo i migliori auspici. Cercai di sciogliere la sua tensione. «Buono, però caro», disse Rosalba assaggiando il pesce. «E mi sembra anche un po' freddo. Comunque il posto è incantevole, da solo vale il pranzo». «Sono contento che ti piaccia. Vieni, voglio mostrarti un luogo speciale, in pochi lo conoscono». Ci avviamo verso la piazzetta. Poco oltre il museo e il palazzo vescovile apparve una piccola chiesa quasi nascosta in un angolo della piazza. Era l'Annunziata, scavata nel tufo, con un'arcata e una trifora sorrette da due colonne corinzie dell'VIII secolo. Un autentico gioiello paleocristiano. Ci sedemmo sul muretto ad ammirarla. Le presi la mano e mi chinai per baciarla, ma lei si ritrasse di colpo, irritata. «No, non qui. Ci vedono tutti. E poi fa un caldo tremendo. Andiamo in spiaggia. Ti devo dire una cosa importante». In auto, davanti al Tempio di Nettuno, provai di nuovo a baciarla. Lei appoggiò una mano sulla mia bocca, fermandomi. «Aspetta, prima lasciami parlare». «Che c'è? Perché sei così tesa?» «Non hai letto i giornali stamattina?» «No, non ne ho avuto il tempo. Perché?» «Allora di Matteo, non sai niente?» Mi irrigidì. «Matteo? Che c'entra Matteo adesso? Cosa gli è successo?» «L'hanno arrestato, l'antiterrorismo, un'imboscata, e lo hanno preso». Rimasi in silenzio, sbigottito. «Ero sicuro che prima o poi sarebbe finita male», dissi. Lei mi guardò sorpresa dalle mie parole. «Cosa vuoi dire? Spiegati!» «Frequentavamo un centro sociale a Busto. In realtà era un covo di autonomia operaia, potere operaio, gente pericolosa». «Io non so nulla di quelle cose». «Meglio così. Sono scappato proprio per starne alla larga. Matteo, invece, ci è finito dentro. Anch'io avrei potuto finire così». «No, non ci credo», scosse la testa. «Tu e lui siete troppo diversi». «Forse, ma siamo cresciuti nello stesso ambiente e la logica di quel mondo la conosco bene. Se non stai attento, finisci per essere inghiottito». Restammo un momento in silenzio. «E adesso?» chiese lei. «Che facciamo? È nostro cugino». «Lo andiamo a trovare, in carcere, se vuoi». «E l'Inghilterra, il viaggio?» «Andremo dopo. Prima passiamo da lui. Sai dove lo tengono?» «A Cuneo», rispose lei. «Carcere di massima sicurezza. A settembre c'è il processo». Lei sospirò, guardando verso il tempio di Nettuno mentre la luce fioca del tramonto lentamente lo avvolgeva nell'oscurità. Sì, andiamo. Non lo vedo da anni. Voglio capire anch'io come è potuto succedere. Sembrava ieri che giocavamo tutti insieme sulla spiaggia. Già, a volte il destino sa essere davvero crudele.